Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1, scusate, megahertz, in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Un paio di ore di musica dal vivo, registrata dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 in poi, fino alle 12.25 staremo insieme con musica di ogni genere e di ogni epoca. La trasmissione si chiama Città Fujiko Live Club ed inizia sempre con una novità. Anche quest'oggi non è da meno, una novità che arriva da una band californiana, un quartetto californiano denominatosi Long Riders, come l'omonimo film, oserei dire, e che è attivo fin dal 1982, anche se in realtà poi ha avuto diverse interruzioni nel corso della propria carriera, carriera che è un po' in bilico in questi ultimi tempi, visto che il cantante, anche lui, e bassista Tom Stevens è morto un paio di anni fa e ancora non si è deciso bene quale sarà il futuro della band. Anche se in realtà pare che stiano incidendo un album nuovo. Native Sons è il primo album della band, è una serie di riproposizioni del loro album. Infatti qualche tempo fa è uscito State of Our Union in ristampa. Questo album è stato pubblicato originariamente nell'ottobre del 1984, mentre il gennaio scorso è stato ripubblicato in versione 3 CD. Questa è la prima novità che vi propongo, uscita in quest'anno, uscita nel 2024. Le altre che ci siamo ascoltati in precedenza e che magari ci ascolteremo anche in futuro, alcune sono state invece pubblicate lo scorso anno. Questa invece è 19 gennaio 2024, quindi è freschissima. 2-3 CD, come vi dicevo. Il primo è la versione originale debitamente rimasterizzata, il secondo una serie di amenità varie, demos, cose acustiche, e il terzo, che è quello che interessa a noi invece, è un album, chiamiamolo così, anzi è un album che si chiama Live at Dingwalls, registrato nell'omonimo locale londinese il 22 marzo del 1985. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare subito questi Long Riders con uno dei loro classici. Prendetele sempre con le virgolette quando parlo di classici di questi gruppi, già i gruppi sono poco conosciuti, magari anche i brani che vi faccio ascoltare non sono notissimi. Questo si chiama State of My Union, loro sono Long Riders al Dingwalls, 22 marzo, quindi di questi giorni, però era il 1985. Too many you alls, you all. Won't you bear with me, honey, 'cause I think I'm feeling a call. Well, let me first off say that I don't know just what you heard. Well, a little powder and I don't believe a word. So let's just go to the kitchen where we start. football man, you gotta try it. Did I tell you my old man is a little bit like Bill Bryant? You gotta play the games, such it's in the foul. You got a little piece of showman, he's a picking up around. We got state fairs, go-karts, crashing round in bumper cars. Drunker while the sober are going out of the bar. Got a front foot swing where you know you are. Here comes the funny part. Hey, Dad, I can't explain about the stains in the back of the car. We gave you blues and jazz and country and western too. We're gonna ask for a back after what you put them through. Fields and streams. Maybe it ain't exactly heaven, but it's certainly part of my dreams. So you just walk a little with me, won't you carry a bit of my song? I'm gonna tell you a story about a place where I come from. River starts flowing down and I throw in too many U-Hauls. U-Hauls, won't you bear with me, honey, cause I can't. Non ho detto che Riders, questi erano appunto i Long Riders, non è scritto correttamente, nel senso che Riders, lo sa bene chi mangia spesso cose ordinate su internet, è scritto con la I, Rider o Riders plurale. Questo invece è scritto con la Y, perché è un vezzo che deriva dai Birds, il famoso gruppo che si chiamava Uccelli, ma non con la I, ma sempre con la Y. Quindi i Long Riders hanno preso questo vezzo dai Birds e si scrive appunto con la Y, ma si pronuncia praticamente nello stesso modo, almeno per chi ne sa poco di inglese come chi vi sta parlando. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama State of My Union, loro erano tratti da questa ristampa del loro primo album che si chiama Native Songs, che appunto comprende un dischetto registrato dal vivo al Dingwalls nel marzo del 1985. E questa registrazione del Dingwalls mi dà l'occasione di ascoltarci brani che sono stati registrati in questo locale. Chi di voi è stato a Londra, presumo la maggior parte di chi mi sta ascoltando, ha visto sicuramente questo locale, perché una delle mete principali, forse anche troppo, della città britannica, della capitale britannica, è Camden Lock, un posto molto bello, molto affollato, troppo affollato, ma alla fine proprio sul Lock c'è un mercatino e c'è una serie di edifici. Uno di questi ha scritto in grande di fianco Dingwalls, che era il nome del proprietario nel secolo, anzi ormai due secoli fa per essere precisi. E a un certo punto ci fu una sorta di spartizione di questi locali appartenuti a Dingwalls e una parte fu acquistata da una società che nel 1973 aprì un locale che si chiama nello stesso modo e ha ospitato tantissime band, ha una capacità di solamente 500 persone, per cui capirete che non può ospitare gli Oasis o i Guns N' Roses o Bruce Springsteen, però ci sono passati veramente tantissimi musicisti, tutti i grandi gruppi alle prime armi e molti gruppi americani che arrivano per la prima volta in Gran Bretagna e magari non sono famosissimi. Adesso ci ascolteremo alcuni brani registrati appunto al Dingwalls, che non sono tantissimi, però vediamo di riempire questa prima ora con brani registrati in questo locale, lo ripeto, si chiama Dingwalls. E cominciamo come sempre per dovere di ospitalità da una serie di bands americane e di artisti americani, ad iniziare da un quartetto femminile che arriva da Los Angeles, è stato attivo dal 1981 al 1989, poi nel 1998 si è riformato ed è arrivato, sta suonando tuttora, è arrivato fino a noi. Molti di voi si ricorderanno due brani di grande successo del loro repertorio. Il primo si chiama Walk Like an Egyptian, il secondo invece si chiama Manic Monday, il secondo fra l'altro scritto da Prince. Sto parlando naturalmente delle Bengals, che ci andiamo ad ascoltare da un vinile, da un album che si chiama Live for Life, un album che racchiude diversi artisti, fra cui anche i Police, i più importanti, anzi Sting, già da solo, scusate. Era un album che fu fatto per raccogliere fondi per un'associazione che si chiama AMC Cancer Research Center, un'associazione appunto per la ricerca sul cancro, che sta a Denver ed è stato assimilato da, è stato composto diciamo da Miles Copeland, fratello di Stewart e noto imprenditore musicale dell'epoca. Registrato il 12 febbraio del 1985, ci andiamo ad ascoltare le Bengals, il brano si chiama Hero Takes a Fall. We'll be right back. Vengono da Tempi, Arizona, sono stati attivi, anzi lo sono tuttora, fin dal 1987, anche se hanno subito un'interruzione di qualche anno a cavallo del passaggio, del cambio del secolo. Hanno avuto un buon successo negli anni 90, soprattutto presso le college radio americane. Loro si chiamano Gin Blossoms, il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama My Car, ed è stato registrato al Dingwalls il 25 gennaio del 1996, fa parte di un singolo, un brano in studio e tre brani dal vivo, fra cui appunto questa My Car che ci siamo ascoltati. Chi invece ha avuto veramente un grande successo negli anni 60 alla giovanissima età di 16 anni è stato un personaggio chitarrista cantante che si chiama Alex Chilton. Ha iniziato la sua carriera con i Box Tops, con cui ebbe appunto questo grande successo che si chiama The Letter, e poi allo scioglimento di questa band fondò i Big Star, che è una band non molto conosciuta dal pubblico ma osannatissima dai musicisti. Sono tantissimi i musicisti che dichiarano di essere stati ispirati dai Big Star. E Alex Chilton ha fatto un album che si chiama Live in London, che è stato registrato appunto al Dingwalls il 28 maggio del 1980. Alex Chilton ci ha lasciato purtroppo nel marzo del 2010 alla tenera età di 59 anni. Ci andiamo ad ascoltare, questo è proprio il suo più grande successo e ce lo introduce lui stesso, Alex Chilton. This one called The Letter. Take it for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. How am I going home? I'll be with you for a man. I don't care how much I gotta spend. Got to get back to my baby once again. Ultima di questo manipolo di rappresentanti statunitensi, una band che si chiama Orwells, band relativamente nuova, pur essendo stata fondata a Chicago nel 2009, nel 2018 si sciolse, poi si è riformata nel 2023, cioè l'anno scorso, ed è tuttora in giro a suonare. Loro sono un quintetto, hanno fatto cinque album in studio, più alcuni extended play, che alcuni dei quali sono reperibili solamente su internet, tipo questo che è, appunto, si chiama Live from the Dingwalls EP, che è stato registrato naturalmente a Londra. È anche la registrazione più nuova fra quelle che ci ascolteremo in questa prima parte della trasmissione, che forse l'avrete capito, è dedicata a brani registrati al Dingwalls di Londra. Il brano si chiama Let It Burn, loro invece si chiamano Orwells. Hey, Wallace! And Larry, are you taking LSD in the end? Oh, fuck. One, two, one, two. Sinceramente non sono riuscito a trovare il testo di questo brano, per cui non vi so dire se era un'ode all'LSD o un warning contro l'LSD. Il fatto che si chiama Taking LSD, il brano che ci siamo ascoltati, la band invece si chiama Deviants, una band che arriva dagli anni 60, che da un certo periodo in poi, diciamo nei tardi anni 70, è diventata la backing band di Mick Farren, il cantante, e pur mantenendo il nome Deviants, però è stato lui il leader, che decideva un po' di tutto. Il buon Mick Farren, però, nel luglio del 2013, sul palco al Borderline, sempre a Londra, ebbe un infarto e morì poco dopo all'ospedale. Questo è per la cronaca obituaria, se volete. Fra parentesi, in questo periodo nei Deviants, il chitarrista era Wayne Kramer, chitarrista originale degli MC5, grande band di Detroit, grande band americana. Il tutto registrato il 9 febbraio del 1984, il brano lo ripeto ma l'avrete capito, si chiama Taking LSD, loro si chiamavano Deviants. Uno dei miei personaggi preferiti, grande cantante, purtroppo non molto conosciuto, non molto valutato, diciamo, in tutto il mondo. In Gran Bretagna non dico che sia un idolo, ma è sicuramente un grande personaggio per buona parte delle vecchie generazioni, diciamo così. E lui è stato prima con i Family, poi con gli Streetwalkers e poi con la propria carriera solista. Roger Chapman sta per compiere 82 anni, ma ogni tanto fa ancora qualche concerto. Io ne ho visto uno subito prima della pandemia, subito prima che ci chiudessero per il Covid in quel di Londra, e sembrava di essere un po' al geriatrico. È stata un'esperienza proprio non di quelle migliori della mia vita. Comunque lui è un grande e ha fatto un sacco di album dal vivo, fra cui una serie che si chiama The Loft Tapes, sono 4 volumi, questo è il terzo, è stato registrato insieme ai suoi Shortlist, la band che spesso quasi sempre l'accompagna. Il tutto registrato il 15 di aprile del 1996. Roger Chapman, ce l'andiamo a ascoltare in uno dei suoi classici, anche questo fra virgolette, che si chiama Kiss My Soul. Fire! I know that you're gonna be a king of emotion, king of emotion. Qualche problema per quel che riguarda il CD di Roger Chapman, così siamo passati un po' in anticipo ai Big Country, che in maniera acustica suonarono al Dingwalls il 20-21 marzo del 1996, quindi praticamente la prossima settimana potrebbero essere di scena per quel che riguarda Record It Today. Loro vengono tuttora da Dunfermline in Scozia, e ebbero il primo stint, chiamiamolo così, dal 1981 al 2000, poi nel 2010 si riformarono e sono tuttora attivi, anche se il personaggio carismatico, cantante chitarrista che li caratterizzava, Stuart Adamson, nel dicembre del 2001 ha pensato bene di suicidarsi e quindi non è più della partita. L'album che ci siamo ascoltati si chiama Eclectic, appunto un album acustico da parte di Big Country, una cosa un po' particolare perché Big Country aveva un suono molto elettrico. Comunque era il marzo del 1996, il pezzo si chiama tuttora King of Emotion. Andiamo a chiudere con un altro grande personaggio, purtroppo non era in crofilia, vi assicuro, anche lui è scomparso nell'aprile del 1991. Si chiamava Steve Marriott, grande chitarrista, prima con gli Small Faces, poi gli Humble Pie e poi da solo. Questo album si chiama molto pragmaticamente Dingwalls 6-7-84, cioè Dingwalls 6 luglio 1984. Nel 1984 mi trovavo in quel di Londra e praticamente un mese dopo, il 2 agosto, vidi Steve Marriott e la sua band al Marquee in un grandissimo concerto. Questo è un mese prima, però il concerto è più o meno sulla falsa riga di quello che ho visto io. Sulla copertina di questo album lui era raffigurato con la sigaretta in bocca, non so se sia voluto o se sia un omaggio, si fa per dire, perché la sua morte fu dovuta a un incendio, l'incendio di casa sua, che pare, sono quasi sicuri, che sia dovuto a una sigaretta che lui stava fumando, si è addormentato, la sigaretta è caduta sul letto, la casa si è incendiata e lui è morto. Ma comunque andiamo avanti, il pezzo che ho scelto per voi è un classico, anche questo sempre fra virgolette, proveniente dall'epoca degli Small Faces, infatti è firmato Marriott Lane. Lane era il bassista prima degli Small Faces e poi dei Faces. Comunque il pezzo si chiama All or Nothing, Steve Marriott in quel del Dingwalls di Londra, era il 1984. All or Nothing. You'd listen to my reasoning. But now I see you don't hear a thing. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 13 marzo 2024, seconda parte che come di prassi è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Si chiama la band, si chiama Long Riders e la novità non è una novità in quanto è una ristampa, anzi la ristampa del loro primo album che si chiama Native Songs, da long play in vinile singolo è diventato un triplo CD, il terzo dei quali è un album live registrato nel Dingwalls di Londra il 22 marzo del 1985. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Mason Dixon Line. Ma come sempre nella seconda parte arriva Recorded Today, brani che sono stati registrati nella giornata odierna nel corso degli anni, e ancora oggi non mi stancherò mai di dirlo e di scocciarvi. Ci sono tantissimi brani registrati in questa giornata e il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Prima di introdurre il primo pezzo, un avviso, il pezzo è molto lungo, per cui vi consiglio caldamente di prendervi una tisana, un tè, una coca, quello che volete, una coca in senso di Coca-Cola, e non dico una birra perché è un po' presto nel mattino, almeno per i miei canoni, però dopo rilassatevi, perché adesso arriva uno di quei pezzi, non uso mai questa parola, ma questa veramente ci sta, è un pezzo epocale. Molti di voi spero conosceranno Alma Brothers Band, spero proprio di sì. Dirò solamente che sono formati a Jacksonville in Florida nel 1969, si sono sciolti nel 2014, non prima di aver spostato il loro quartier generale a Macon, Georgia. Comunque, uno dei migliori album live in assoluto di tutti i tempi, secondo la critica e anche secondo chi vi sta parlando, si chiama At Fillmore, uscì originariamente in versione due long play il 6 luglio del 1971, poi è stato ristampato in versione due CD, invece questa volta nell'ottobre del 1992. Da questo doppio CD ci andiamo ad ascoltare questo brano che è stato registrato il 13 marzo del 1971. Loro suonarono due giorni al Fillmore East, 12-13, però per ogni brano c'è la data esatta di registrazione. 13 marzo, dicevo, 1971, questo è un super super super classico, ascoltatelo perché è veramente bellissimo. Si chiama In Memory of Elizabeth Reed. A song Dickie Best wrote from our second album, In Memory of Elizabeth Reed. Personalmente sono cresciuto innamoratissimo, lo sono tuttora, del progressive rock britannico soprattutto, ma quando ho ascoltato questa cosa per la prima volta sono stato veramente, veramente sconvolto e giuro non avevo assunto nessun tipo di sostanza stupefacente perché mai l'ho fatto. Si chiamavano purtroppo Allman Brothers Band, il pezzo invece Memory of Elizabeth Reed, da quell'album, ribadisco, epocale che si chiamava inizialmente At the Fillmore nella versione doppio long play. Si chiama The Fillmore Concerts nella versione doppio CD, uscito nel 1992. Vi consiglio caldamente di sentirlo, perlomeno. Era il 13 marzo del 1971. Cambiamo radicalmente, forse un po' troppo, approccio musicale. Passiamo al 1982 con una band che aveva un potenziale altissimo ma che ha rovinato completamente la propria carriera tramite droghe e alcol vari. Famosa è rimasta una loro apparizione al Saturday Night Live, una di quelle trasmissioni televisive americane che lanciano la tua carriera. Ecco, loro dovevano essere lanciati da quella esibizione, invece arrivarono completamente ubriachi e suonarono non si sa bene cosa. Loro si chiamavano Replacements e arrivavano da Minneapolis, dove fra l'altro è stato registrato questo mini CD. Se prima il brano che ci siamo ascoltati durava 13 minuti, questi 8 brani che compongono Stink ne durano 15, per cui siamo veramente nel campo opposto dello spettro musicale. Registrato a Blackberry Way di Minneapolis, appunto, il 13 marzo del 1982, questi sono i Replacements. Il brano che ho scelto per voi è il più lungo della serie, 2 minuti e 28, si chiama Go. Era il 13 marzo del 1999 alla birreria dell'Oca Selvaggia, detta in idioma locale Wild Duck Brewery di Eugene in Oregon, erano di scena gli String Cheese Incident, una delle jam band più famose, più ottime, più brave anche. Vengono dal Colorado e sono attive dal 1993, anche se hanno avuto un piccolo break nel corso degli anni. È una delle jam band del lato più country di questo enorme serbatoio di grandissimi musicisti che purtroppo qua in Italia è completamente sconosciuto. E nel 1996 fondarono la loro casa discografica che si chiama Science Fiction Records, anche qui con il bolognese andiamo alla grande. E la seconda uscita discografica di quella compagnia fu appunto questo Carnival 99, album live registrato qui e là per il mondo, anzi per gli Stati Uniti per meglio dire, e che li vedeva appunto in Oregon il 13 marzo del 1999. Loro, come dicevo, sono tuttora molto orientati verso il country, ma questo non disdegna qualche puntata nel jazz. Infatti il brano che ci siamo ascoltati è un brano di Wayne Shorter, indimenticato sassofonista con tantissimi gruppi, in primis i Weather Report, e il brano si chiama Footprints, uno dei classici di Wayne Shorter, interpretato per l'occasione dai String Cheese Incident. Ancora una volta cambiamo completamente genere, qui siamo in Giappone, ci trasferiamo nella terra del Sol Levante insieme a un trio californiano che è attivo dal 1987 ma che ebbe il momento di grande successo, di esplosione diciamo così, nel 1994 con un album che si chiama Dookie. Avrete già capito che sto parlando di Green Day. Nella prima parte della loro carriera hanno fatto un sacco di cose dal vivo, singoli, extended play, album live. Qui abbiamo un extended play, purtroppo poi devo dire che nel corso della seconda parte della carriera queste uscite live si sono veramente diradate, sono diventate quasi nulle. Comunque qui ne abbiamo una che è stata registrata appunto in Giappone nel 2001, si chiama Tune in Tokyo. È un gioco di parole, una presa in giro diciamo così, perché Tokyo non c'entra, non è stato registrato nessuno dei brani che sono compresi in questo mini album, sono 7, è stato registrato a Tokyo. Infatti Tune In sarebbe accordando le chitarre, accordando gli strumenti per Tokyo, e infatti tutti questi concerti furono fatti prima di arrivare a Tokyo, nello specifico al ZEP di Osaka, in Giappone. L'ho già detto, il 13 marzo del 2001 i Green Day eseguirono questo pezzo che si chiama King for a Day. Un po' di scambi di battute con il pubblico, siamo in Giappone, questi erano Green Day, registrati il 13 marzo del 2001, il tutto contenuto in un mini album che si chiama Tune In Tokyo, che vede in azione il trio californiano aumentato come al solito da due chitarristi, ma in questo caso anche da tre fiati. Durante quel tour c'era anche questa opzione. Siamo così arrivati alla conclusione, a concludere Ricordi Today e anche Città Fujiko Live Club. Ci penso una super band che si chiama Transatlantic. Prima però vi ricordo che vi siete ascoltati appunto Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, via Zanardi in Bologna. Naturalmente c'è anche il web con l'app che potete tranquillamente scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it e con questa ascoltare tutte le trasmissioni di Radio Città Fujiko anche nel corso del tempo. L'appuntamento con Città Fujiko Live Club invece è per mercoledì prossimo, sempre alle 10.30. Vi lascio appunto in compagnia di questa multinazionale del Progressive, un super gruppo. Neil Morse, il tastierista, viene da una band che si chiama Spokesbird ed è americano. Ronnie Stolt, chitarrista, viene da Flowers King ed è svedese. Pete Trewasav suona il basso e viene da Meridian, per cui è inglese. Mentre Mike Portnoy viene dai Dream Theater, nei quali è tornato da poco tempo, dopo una breve uscita, ed è americano. Hanno fatto 5 album in studio e 6 dal vivo, questo è abbastanza anomalo. Ma sono tutti doppi, tripli, con DVD, con un sacco di cose. Questo si chiama Kaleidoscope ed è il 5° album dal vivo, nome è un gioco di parole con l'album in studio precedente che si chiamava Kaleidoscope. Questo invece si chiama Kaleidoscope. Niente di meno interessante. 3 CD più DVD, tutto registrato all'Old 13 del Tilburg in Olanda. il 2014. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama We All Need Some Light ed è uno dei pezzi più corti per concludere questa città Fujiko Live Club di oggi. Ciao a tutti da Nevio. You guys gotta help me sing, okay?